capitano, che succede? È la stampa, belletta, la stampa. La rassegna stampa di Radio 24, a cura di Bruno Perini. E tu non ci puoi far niente, niente. Caso Englaro, anche la stampa si divide, sì, se si guardano oggi i giornali si vedono titoli molto forti e molto diversi. Il Foglio, per esempio, titola: dai tempi del Terzo Reich nessun disabile innocente era stato messo a morte, e c'è un articolo di Giuliano Ferrara che è, diciamo, fortissimo: fatele un'iniezione letale. Invece abbiamo, per esempio, sul caso Englaro un giudizio molto convinto, molto argomentato, di Umberto Veronesi su Quotidiano La Repubblica, dal titolo "Non vince la scienza". Intanto un saluto da Bruno Perini dagli studi di Radio 24, in regia con noi Carmelo Lauricella. Sì, il caso Englaro non è l'unica cosa che troviamo sulle prime pagine dei giornali. Abbiamo anche sulle violenze alla Diaz, assolti i capi della polizia, la rabbia dei parenti in aula, vergogna. E poi vedremo il caso Rai e lo scontro politico tra maggioranza e opposizione. Ma voglio tornare al caso Englaro perché, come dire, è forse la notizia più grossa, quella che fa più discutere. E scrive Giuliano Ferrara sul Foglio: spero che adesso prendano Eluana e le facciano fare una morte dolce. Spero che adesso, visto che di questo si tratta, mi auguro che non la lasciano morire di fame e di sete per giorni e giorni. Non dovesse essere lei a soffrire, e ne dubito, ne soffrirebbe un sacco di gente semplicemente buona. Mi sembra meno ipocrita l'idea di iniezioni di morfina fino al collasso terminale di quel corpo reso infelice dalla mancanza della coscienza vigile e della relazione con gli altri, tuttavia vivo e vegeto, come si dice con espressione infallibilmente anti-eutanasica. Ma forse la morfina no. Forse questi che hanno deciso l'abbandono di una portatrice di handicap devono elevarsi al livello di civiltà dei paesi in cui si ha il coraggio di praticare senza ipocrisia la pena di morte. Un'iniezione letale credo sia il pentotal, e la cosa voluta è cosa fatta. Il principio di autodeterminazione e la libertà di coscienza sono salvi. Chi ieri ha parlato di pena di morte, quasi tutti, ha sbagliato. La pena di morte, per quanto controverso, perfino odiosa, è un tentativo di giustizia retributiva. Qui è un abbandono piuttosto. Qui è un uccidere per eccesso di amore o per eccesso di disamore. Fa lo stesso. Qui la giustizia non c'entra. Questo Giuliano Ferrara sul quotidiano Il Foglio, con un giudizio, come avete sentito, molto severo. Tra le altre cose, in prima pagina sul Foglio c'è una bottiglia d'acqua, per dire, insomma, gli toglieranno l'acqua. E, diverso, con diverse argomentazioni, ovviamente, è Umberto Veronesi sul quotidiano La Repubblica. Andiamo a vedere cosa scrive Veronesi, professor Veronesi. La sentenza della Cassazione non sancisce la vittoria degli scienziati, né dei laici, né di qualche schieramento politico, ma dei cittadini e dei principi della Costituzione che ne tutelano la libertà. E una volta di più i giudici dimostrano la loro fedeltà alla Costituzione e l'indipendenza intellettuale dalle pressioni ideologiche, perché proprio quei diritti di tutti i cittadini alla libertà individuale stiamo parlando. Con tutti intendo credenti e non credenti. Sono un laico che ha profondo rispetto per le idee della religione, di ogni religione, e penso che sia legittimo che la Chiesa le promuova verso chi crede. Tuttavia, in Italia ci sono 10 milioni di cittadini che ufficialmente si dichiarano non credenti e diversi milioni che si definiscono parzialmente credenti. Credo che si debba tener conto anche delle loro idee e soprattutto dei loro diritti. Mi ritrovo nelle parole che scrisse Indro Montanelli: io non mi sono mai sognato di contestare alla Chiesa il suo diritto a restare fedele a se stessa, cioè ai comandamenti che le vengono dalla dottrina, ma che essa pretenda di imporre questi comandamenti anche a me, che non ho la fortuna di essere un credente, cercando di travasarli nella legge civile in modo che diventi obbligatorio anche per noi non credenti, è giusto? A me sembra di no. Questo è Umberto Veronesi che riporta le parole di Montanelli. Il quotidiano La Repubblica, in terza pagina, ci propone anche una intervista al papà della ragazza sulla quale si sta decidendo, insomma, ecco. E Piero Colapricco: anche nell'inferno c'è a volte una pausa. Stavo nello studio del professor Angiolini, nessuno di noi si aspettava niente di immediato quando hanno cominciato a squillare tutti i telefoni. La sentenza è arrivata a lei, signora Englaro. Ha davvero smesso di rilasciare interviste? Glielo confermo, sì, basta. Lunedì ho detto stop. Ho parlato con il TG1 e registrato anche con Bruno Vespa, che lo chiedeva da tempo. Gli ho detto che eravamo al giorno 6.143. Oggi siamo al giorno 6.146, da quando c'è stato l'incidente alla mia Eluana. E perciò chiedo di poter tornare nella nostra sfera privata. Fine. L'ultima parola per me è quella scritta dalla Cassazione. Che cosa posso dire di più? Sono anni che parlo. E insomma, ecco, l'esordio, insomma, del papà di Luana Englaro è: figlia mia, ce l'abbiamo fatta. Ho resistito pensando al dolore degli internati nei lager. E come vedete, qui c'è un riferimento anche qui ai noi, ai lager, ma con una tonalità diversa da quella posta da Giuliano Ferrara. E il Messaggero invece, d'altro canto, intervista Fisichella: decretare la fine è una sconfitta civile e morale. Monsignor Fisichella, non si dà pace. Morire di fame e di sete è una delle cose più dolorose e crudeli che ci possono essere. Ciò che la Chiesa temeva alla fine è arrivato. Quando si arriva a decretare la morte è sempre una sconfitta, civile e morale. Mi auguro che questo possa consentire a tanti di capire per cosa dobbiamo lottare. Dovremmo essere più responsabili nei confronti della vita. Si aspettava un epilogo simile per il caso Englaro? Ho sperato sino all'ultimo che questa sentenza non arrivasse, anche perché il Parlamento sta lavorando per arrivare a un testo più possibile condiviso. Penso che si poteva anche aspettare la legge e rispettare così il ruolo del Parlamento. Quindi, come vedete, insomma, siamo proprio a posizioni radicalmente opposte attorno al caso Englaro. Tra un padre e una figlia, scrive Massimo Gramellini sul quotidiano La Stampa: prima di parlare di giudici arroganti e omicidio di Stato, come hanno fatto nelle ultime ore politici e preti, vale la pena ricordare che il caso Eluana non è una disputa astratta che percorre i cieli stellati della metafisica, ma la storia vera di una persona e della sua famiglia. Prima di affermare con tanta sicurezza cosa è giusto e cosa è sbagliato per tutti, cosa obbedisce alle leggi di natura e cosa no, bisognerebbe fare lo sforzo di immaginarsi nei panni di un gruppo di umani che a certi problemi teorici si è trovato a viverli sulla propria pelle. Eluana Englaro aveva 20 anni quando un incidente d'auto al ritorno da una festa la ridusse in coma vegetativo. Era il 18 gennaio del 92. Il signor Beppino, che certa pubblicistica ha fatto passare per un padre sbrigativo e degenere, cominciò a fare la spola tra gli ospedali. Ecco, così Massimo Gramellini sul quotidiano La Stampa. Dice ancora: li hanno chiamati i giudici arroganti perché si sono arrogati una decisione sul destino di Eluana. Ma come dovremmo chiamare le istituzioni lombarde che non intendono eseguire nelle loro strutture sanitarie una sentenza della Repubblica Italiana? E i politici che, agitando lo spettro di un'eutanasia generalizzata, ritardano da anni una legge sul testamento biologico che consenta almeno a chi si trova nelle condizioni di Eluana nessuna possibilità di miglioramento, volontà manifesta del paziente di disporre liberamente del proprio destino? Questo Massimo Gramellini sulla Stampa, come vedete, come dire, quindi dunque a favore della sentenza avvenuta a proposito del caso di Eluana Englaro. Il quotidiano Il Giornale intervista, il quotidiano Il Giornale intanto prende una posizione, come Il Foglio, nettamente contraria, perché il titolo di prima pagina è: Eluana morirà, da oggi in Italia c'è l'eutanasia. È un orrore che ci divorerà. Questo Mario Giordano, molto pesante: per la prima volta dopo mesi oggi mi fa paura il foglio bianco, non riesco a scrivere. Osserva la foto di Romana e penso che dentro quegli occhi che ti guardano e non ti vedono c'è tutto il mistero della vita e della morte, c'è il senso della nostra esistenza, ci sono i nostri ricordi, il passato, il futuro, c'è il nostro credo e la nostra speranza. Dicono che Romana morirà dolcemente e non è vero, morirà dopo una lunga agonia. Dicono dicono che a Eluana staccheranno la spina e non è vero, in realtà smetteranno di nutrirla. Ecco, queste le posizioni di Mario Giordano. Mario Giordano, il giornale titola anche giudici supplenti dei politici, un'intervista a Giuliano Pisapia, un avvocato oltre che ipergarantista anche esponente di Rifondazione Comunista per una legislatura, scrive Stefano Zullo intervistando Giuliano Pisapia, è stato tra i primi dell'ormai lontano 96 a presentare una proposta di legge sul tema del testamento biologico. Ed ecco qui ancora, dice Giuliano Pisapia, penalista ed ex presidente della Commissione di Giustizia della Camera, considera la sentenza della Cassazione una decisione storica al termine di una lunga battaglia, ma aggiunge ancora una volta si è dovuto delegare un tema così importante ai giudici, il cui compito dovrebbe essere quello di applicare la legge e non di sopperire alle carenze del legislatore. Invece siamo arrivati a questo punto dopo moltissime sentenze e perizie, dopo 10 anni di tormenti e sofferenze. Sarebbe stato meglio, molto meglio, se il destino di Eluana non fosse stato deciso dai magistrati. Questo sul giornale Giuliano Pisapia, intervistato da Stefano Zurlo. Ora io voglio adesso abbandonare il caso Englaro, ritornare un attimo alla quotidiana La Stampa, perché ci dà spunto per altri titoli e altre questioni. Uno di questi è ovviamente la scuola Diaz, assolti i vertici della polizia, condannati solo 13 agenti, dall'aula un urlo, vergogna. E Riccardo Barenghi, ex direttore del Manifesto e direttore del Manifesto ai tempi dei fatti, scrive: la storia la fanno i fatti, non le sentenze, soprattutto quando i fatti sono sotto gli occhi di tutti, evidenti, acclarati, come nel caso della scuola Diaz di Genova. Poi ovviamente esistono sentenze che si possono definire storiche o esemplari, ma che alla fine dei conti sono una conferma, una smentita dei fatti accaduti. Quella di ieri è appunto una sentenza storica, esemplare, ma nel senso opposto. Questo scrive Riccardo Barenghi, nel senso opposto a quello in cui normalmente si usano questi aggettivi, perché scarica le responsabilità su coloro che hanno eseguito gli ordini, condannandoli, mentre assolve quelli che, se non hanno impartito quegli ordini, avrebbero dovuto quantomeno controllare che cosa stava accadendo e magari intervenire, visto che erano presenti sul luogo del delitto. Questo scrive Riccardo Barenghi a proposito della sentenza che ha assolto i vertici della polizia e ha condannato solo gli operativi. La Stampa ospita anche un intervento di Arrigo Levi su tutt'altro argomento e su quello che mi voleva agganciare. Arrigo Levi dice: sullo scudo Berlusconi ha ragione, si possono avanzare delle riserve, sono state avanzate da varie parti, anche dall'onorevole Giulio Andrea sul modo in cui è stata espressa la netta presa di posizione italiana del Presidente del Consiglio e del Ministro degli Esteri contro il progetto americano di costruire pezzi di scudo spaziale tra Repubblica Ceca e Polonia. Ma non è motivo di scandalo se una volta tanto un paese della NATO come l'Italia, un alleato di sempre dell'America, che ha dato in ogni crisi prove molto concrete del suo impegno e della sua fedeltà a questa alleanza, esprime un giudizio critico su una delle iniziative più avventate della presidenza Bush, scrive Arrigo Levi, come è stata appunto la decisione sullo scudo, senza che venisse svolto prima un negoziato altamente impegnativo e al più alto livello per trovare un punto d'accordo con la Russia. Questo dalla Stampa. E a questo proposito, se noi ci trasferiamo sul quotidiano Libero, troviamo due interventi sulla politica estera di Silvio Berlusconi. Compagno Silvio, che è anche un po' ironica, Fausto Cariotto, compagno Silvio, no, è diplomazia delle pacche. Viene quasi da ridere a scriverla, per quanto appare paradossale, ma siccome è la verità, tanto vale dire le cose come stanno. Silvio Berlusconi in politica estera, in questi pochi mesi di governo, è riuscito a fare quello che Palmiro Togliatti e i suoi successori alla guida del PC hanno tentato senza successo per mezzo secolo: portare l'Italia nella sfera di influenza del Cremlino e allontanarla dall'orbita americana. Beh, insomma, voglio dire, molto forte come affermazione quella di Fausto Cariotti. Oggi siamo il paese occidentale più vicino alla Russia, che non sarà più il cuore dell'Unione Sovietica, ma resta governata dai figli del KGB, il servizio segreto del Partito Comunista. Questo comunque sarebbe il meno. La Russia, in fin dei conti, sembra quasi una democrazia e soprattutto ci vende il gas, senza il quale passeremo l'inverno al freddo e a luci spenti. I motivi per un buon matrimonio di convenienza, insomma, ci sarebbero pure. Il problema vero è l'altro, gli Stati Uniti d'America, perché se non si fosse ancora capito, siamo a un passo, scrive Fausto Cariotti, dalla crisi diplomatica con Washington. E questo, dice, secondo Fausto Cariotti, questo è quello che potrebbe portare alla presa di posizione. E poi Marcello Veneziani, intellettuale dell'area di centrodestra e che scrive su Libero, scrive invece: ma che gli prende a Berlusconi quando va all'estero? È filo russo, stavo per dire filo sovietico, è filo turco, anzi filo ottomano, è filo arabo in quanto filo libico, una volta fu persino filo bulgaro. Fa il filo a tutti i nemici storici e geografici del nostro paese: mamma di turchi, il feroce Saladino, i mori che lui chiamerebbe abbronzati, le orde cosacche e ad Avenì Baffone. Tutto ciò che un tempo suscitava le paure degli italiani diventa suo alleato e fraterno amico. Lui, che è stato accusato di appiattirsi sull'America, anzi di essere agente italiano dell'americanizzazione o di essere troppo filo israeliano nel Medio Oriente, se la fa con Putin. Questo è il quotidiano Libero, che invece titola in prima pagina un pacco per Walter, insomma, con Vittorio Feltri che un po' se la ride, dice insomma: il centrodestra beffa Veltroni, elegge a presidente della vigilanza un senatore del Partito Democratico di suo gradimento al posto di quello designato dalla sinistra. Lui non si dimette ed è il caos. Bisogna riconoscere che è stato uno sberleffo a Veltroni e anche a Di Pietro, ma bisogna riconoscere che i due se lo sono meritato. Questo scrive Vittorio Feltri. Poi vabbè, probabilmente non c'era ancora la notizia che invece sembra che il candidato designato dal centrodestra, del centrosinistra, si sia poi dimesso. Questo comunque il quotidiano Libero. Ora, se rimaniamo su... intanto voglio ricordarvi che anche la Repubblica si occupa di vigilanza Rai, lo schiaffo del PDL all'opposizione, e qui invece il tono di Giovanni Valentini è cattivissimo nei confronti della maggioranza. Vigilanza non fa rima precisamente con prepotenza, ma non c'è termine più appropriato per definire il comportamento della maggioranza di centrodestra nei confronti dell'opposizione, al culmine del braccio di ferro sul nuovo presidente dell'organismo parlamentare che vigila sul servizio pubblico radiotelevisivo. Prepotenza nel senso di strapotere, abuso di potere o abuso tout court, cioè, per ricorrere a qualche altro sinonimo, arroganza, sopruso, violenza, dispotismo, prevaricazione. Questo però non è soltanto uno strappo al galateo istituzionale, al fair play o alla prassi parlamentare, a quella regola non scritta per cui da sempre tocca all'opposizione scegliere il presidente della commissione di garanzia. Qui siamo al colpo di mano, all'atto di forza, se non proprio all'atto di regime, come protesta Walter Veltroni, o addirittura al golpe, come proclama Antonio Di Pietro. Questo scrive Giovanni Valentini sul quotidiano della Repubblica, commentando la decisione della maggioranza di fare quello che ha fatto con la nomina dell'esponente del PD, però scelto dalla maggioranza. Tremonti, misure contro la crisi senza extra debito, varata dalla Camera la finanziaria 2009. Il governo farà la sua parte per sostenere l'economia nel pieno rispetto dei vincoli di Maastricht e senza aumentare il debito. Così il Sole 24 Ore in prima pagina apre su questo argomento. L'assicurazione del ministro dell'economia Giulio Tremonti arriva il giorno del varo alla Camera, senza voto di fiducia, della finanziaria 2009. Anche la presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia, invita al rispetto dei vincoli UE. Bisogna tagliare la spesa improduttiva. Questo dice Emma Marcegaglia. E il Sole 24 Ore dedica la terza pagina a uno dei temi più preoccupanti anche per l'Italia, anche se non riguarda l'Italia direttamente. Germania in recessione, è la peggiore da 12 anni. Pesa la dipendenza dall'export, è la prima contrazione per due trimestri dal 2003. La Germania in recessione è la prima da 5 anni, la peggiore degli ultimi 12. La conferma è giunta ieri con i dati ufficiali del terzo trimestre, che hanno mostrato tutta la debolezza di un paese troppo esposto al commercio internazionale. E dicevo, ci riguarda da vicino, perché la Germania è tradizionalmente un'area di sbocco per l'export italiano. Ora, e non non solo. Il Sole 24 Ore invece affida a Giorgio Barba Navaretti un commento: la riforma globale e i conflitti di interesse. Cosa può fare il G20? Il G20, scrive Giorgio Barba Navaretti, di stasera e domani a Washington è la risposta politica alla crisi economica e finanziaria globale. Le proposte che ne usciranno non potranno limitarsi alle buone intenzioni o alle comunicazioni di facciata. È in gioco il nuovo ordine del governo dell'economia mondiale. È davvero una partita grossa in gioco, e di questo peraltro Giorgio Barba Navaretti parlerà alla trasmissione Dietro la Notizia delle 8:30 condotta dal direttore Gianfranco Fabi. Questo comunque dicevo, sul Sole 24 Ore c'è una sua un lungo commento su cosa dovrà fare il G20 per uscire dalla crisi che attanaglia tutto il mondo e tutta la finanza mondiale. Questo il Sole 24 Ore. Ora il Corriere della Sera invece affida a Giovanni Sartori, che ha suscitato le ire per esempio di Liberazione, ancora a Giovanni Sartori sull'università, due proposte: docenti e merito. Vediamo subito le due proposte. La mia proposta è di anticipare l'età della pensione da 70 a 60 anni. Non per tutti, si intende, ma per i baroncini che da quando sono andati in cattedra non hanno mai scritto un libro, e anche per coloro che le lezioni le fanno sì e no. Un secondo rimedio, scrive Sartori a proposito dell'università, ormai inderogabile anche perché ci aspetta un'istruzione regionalizzata da un federalismo incontrollabile, è l'abolizione del valore legale del titolo di studio, che era dovuta sin da quando l'autonomia delle singole università ha consentito una stessa laurea legalmente tale per corsi di studio completamente diversi, ma che è dovutissima oggi per combattere la mala pianta delle università cartacee che sono spuntate ogni dove, e anche delle scandalose lauree precoci conseguite in 2 anni e anche meno. Valga per tutti il caso della Core di Enna, che laurea in anticipo il 79% dei suoi iscritti. Qui il discorso si dovrebbe allargare alla laurea breve, la cui introduzione ha prodotto effetti devastanti, ma una cosa alla volta. Intanto onore al merito di chi cerca di rivalutare il merito. Questo è il Corriere della Sera, che riporta anche tutte le polemiche a proposito del caso Englaro e il padre Nessuno come mi fermerà. E ora il Riformista invece, scrive in prima pagina, il bluff del governo, sanzioni mai applicate, una lettera del ministro dei trasporti lo dimostra, da 3 anni nessuna pena pecuniaria ha colpito i lavoratori di Sciopero Selvaggio. Scioperi da 3 anni, finte precettazioni. Ma a parte questa polemica, il Riformista invece si occupa di sondaggi, e dei sondaggi Peppino Caldarola scrive i sondaggi del Cavaliere, tutte le lune di miele finiscono. Vediamo cosa scrive Peppino Caldarola: la luna di miele di Berlusconi con l'opinione pubblica sta terminando. I sondaggi più recenti, scrive Caldarola su Riformista, parlano di un calo di consensi che si aggira intorno ai 4 punti. È un segnale. Lo staff del Cavaliere nega l'evidenza e parla di un consenso ancora molto largo. Tuttavia i dati sono quelli che sono e dicono che il miracolo Berlusconi si sta appannando. È successo sempre così ai governi della Seconda Repubblica. Anche l'ultimo governo Prodi, di cui l'appeal è stato da principio abbastanza scarso, superò l'estate con i consensi per le misure liberalizzatrici di Bersani e poi crollò. Berlusconi reagisce alla cattiva fama al solito suo: si sbraccia, girovaga da Mosca a Napoli, dichiara a rotta di collo. Non ha alternative, l'unico jolly del centrodestra è proprio lui. Se si defila il governo sparisce, se lui esonda rivela la crisi e la preoccupazione. C'è nel calo di popolarità del governo un dato ciclico. Questo scrive Peppino Caldarola e poi il Riformista ospita invece un'intervista a Fedele Confalonieri, presidente di Mediaset, amico da sempre di Berlusconi, che dice: tra Silvio Berlusconi e Walter Veltroni non c'è chimica, i due proprio non si prendono, è una questione di chimica. Confalonieri non si sbilancia sulle compatibilità chimiche con altri eventuali oppositori dialoganti, perché in queste cose è lui che decide. vede questo il Riformista. Il Manifesto, beh, titola su Senza vergogna, assolti per la mattanza alla scuola Diaz i vertici della polizia, Franco Gratteri, oggi direttore dell'anticrimine, Gianni Luperi e Gilberto Calderozzi. Dei 29 imputati al processo del G8, il Tribunale di Genova ne condanna solo 13. Ecco qui, poi abbiamo una Vivere e morire con dignità, invece Eligio Resta che scrive a proposito del caso Englaro e Ida Dominiani che scrive a proposito di Diaz, ire del caso Diaz. L'unità libera, ed è anche qui si esprime un'opinione con questa immagine, con questa parola, la Cassazione, diritto all'autodeterminazione in ogni fase della vita. Invece i due settimanali in edicola, Panorama e L'Espresso, trattano di temi molto diversi, perché L'Espresso, come già avete sentito poi dalle polemiche suscitate, titola in copertina, inchiesta, quel furbetto di Brunetta, trasferta a Teramo per la cattedra universitaria, mega sconto per l'acquisto di case, le tante assenze in comune e alla UE. Ecco la resistibile carriera del ministro antifannulloni. Che furbetto, insomma, c'è un lungo articolo che poi prende anche la copertina. Panorama invece si occupa di un tema che occupa, ahi noi, compreso me, devo dire, migliaia di persone, come liberarsi dal mal di testa. Di emicranie ricorrenti soffrono 3 milioni di italiani, ma il tormento può finire in centri specializzati eliminando alcuni cibi con nuovi farmaci mirati e provando soluzioni sorprendenti suggerite da Pascal, Verdone ed altri. Questo il settimanale Panorama. Invece il settimanale economico Il Mondo, l'autorità di vigilanza, la grande partita dalla riforma entro fine anno della Banca d'Italia alla Commissione Letta, le manovre in corso per cambiare assetto e ruolo di Consob, Antitrust e ISVAP. E con questa segnalazione dal Mondo io ho finito il mio tempo, quindi vi ringrazio, vi saluto e vi do appuntamento a domattina.